Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Si stringe il cerchio, arrestati fiancheggiatori del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Inchiesta su Rai e Authority, oggi in procura a Trani gli ispettori. Par condicio, oggi il CDA di Viale Mazzini. Redditi dei parlamentari, Berlusconi dichiara 8 milioni in più rispetto all'anno precedente. Tra i leader, il secondo in classifica è Antonio Di Pietro. Sanremo, un mese dopo, bene le vendite, boom del digitale con un 160% in più. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura di questa edizione parliamo di criminalità organizzata con la maxi operazione contro il boss latitante Matteo Messina Denaro. Sentiamo. Le modalità organizzative della famiglia mafiosa di Castelvetrano e la rete di protezione del super latitante di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, sono state scoperte grazie ad una serie di intercettazioni effettuate dalla polizia che oggi nel Trapanese ha eseguito 19 fermi ordinati dalla DDA di Palermo. Fra le persone fermate nell'operazione Golem 2 contro i presunti favoreggiatori del nuovo capo di Cosa Nostra c'è anche il fratello del boss latitante, Salvatore Messina Denaro, ma anche un componente della banda di Salvatore Giuliano, un uomo di 83 anni che gli investigatori definiscono il decano della mafia trapanese. Fra i fermati per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamenti e trasferimento fraudolento di società e valori ci sono anche alcuni cosiddetti postini, addetti cioè al recapito della corrispondenza di Matteo Messina Denaro contenente gli ordini ai suoi uomini. Mentre la polizia ha eseguito una quarantina di perquisizioni in varie regioni italiane, in cella sono finiti anche alcuni presunti elementi di spicco di Cosa Nostra trapanese, fra i quali i reggenti delle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campopello di Mazzara, Partanna e Marsala, che avrebbero avuto un ruolo di raccordo fra Messina Denaro, i suoi affiliati e i vertici delle cosche palermitane. Giampiero Casagni, GR24, Sole 24 Ore, Palermo. Il commento di Nino Amadore. Ancora qualche settimana fa il procuratore aggiunto di Palermo, Roberto Scarpinato, aveva messo l'accento sulla rete di protezione che copre la latitanza di Matteo Messina Denaro, ormai alla macchia, come si diceva un tempo, da quasi 17 anni, dai colletti bianchi ed alcuni soggetti appartenenti ai servizi segreti con cui il giovane Matteo, detto Diabolic, 48 anni ad aprile, ha avuto rapporti a lungo. L'operazione Golem 2 di oggi mette fine al servizio postale del grande latitante di mafia e smantella il sistema di comunicazione. Si fermano così i pizzini che il capomafia manda ai suoi e dunque gli ordini per eseguire estorsioni, mettere sotto pressione gli imprenditori locali. Senz'altro una magistrale operazione di polizia, ma anche un ottimo segnale per l'ambiente trapanese, permeato di omertà, di paura e di tendenza alla collusione. La lettera inviata dal presidente di Confindustria Trapani, Davide Durante, al questore di Trapani, è l'ennesimo segnale da parte della classe imprenditoriale locale di voler stare dalla parte giusta, soprattutto se si pensa che Durante risiede a Castelvetrano, il paese della famiglia di Messina Denaro. Ecco perché, vista l'assenza di denunce da parte di imprenditori tartassati e addirittura la disponibilità verso la mafia e i mafiosi da parte di altri, resta ora da scavare a fondo in un contesto deviato come quello trapanese per togliere all'ultimo protagonista delle stragi del 92-93 la linfa vitale che è costituita dal consenso sociale. Parliamo di politica adesso, di politica francese però. Il Partito Socialista ha vinto il primo turno delle elezioni regionali, i dati sono ufficiali e sono di poche ore fa, con il 29,1% dei voti e 3 punti di distacco dall'UMP. Il partito del presidente Nicolas Sarkozy al 26,1%, quarto partito il Fronte Nazionale 11,5%, fortissimo l'astensionismo che ha toccato il 53,6%. Tra 2 settimane il secondo turno. Per il politologo Marc Lazar la situazione potrebbe rispecchiare quella delle regionali italiane ormai prossime. L'ho intervistato Maria Luisa Pezzali. Innanzitutto questo voto è caratterizzato da questo altissimo livello di astensionismo, che ovviamente significa di nuovo che la tendenza della crisi della politica francese non è per niente terminata. Abbiamo avuto forse un po' l'illusione nel 2007 al momento della presidenziale che era risolta questa crisi perché c'è stato un alto tasso di partecipazione, però questa volta vediamo bene che ci sono sempre più elettori che rifiutano di andare a votare, sia perché hanno un rigetto della politica, sia perché non sono d'accordo con l'offerta politica, sia perché vogliono sanzionare il governo senza andare verso l'opposizione. Situazione forse un po' comparabile con quella italiana delle 15 prossime giorni. giorni. D'altra parte ovviamente c'è una sconfitta dell'UMP, del partito del Presidente, e dunque del Presidente Sarkozy, che è intervenuto in questa campagna, che ha formato per esempio le liste in diverse regioni, che ha convocato i candidati anche nel suo ufficio presidenziale all'Eliseo, e sicuramente un segno negativo per il partito della maggioranza e per il Presidente della Repubblica in un contesto economico e sociale molto teso. Secondo lei questo voto potrà avere ripercussioni anche a livello nazionale? Se il secondo turno domenica prossima conferma questi risultati, io non vedo come il Presidente della Repubblica non potrebbe dare un segno che ha sentito un messaggio di diffidenza, un messaggio anche di sanzione, e in questo caso dovrà trovare risposte. Quali saranno le risposte non lo so, forse potrebbe cambiare un pochino alcuni ministri, ha dichiarato che non vorrebbe cambiare il primo ministro, quindi questo sarebbe respinto per un altro momento, però soprattutto dovrà pensare alla prossima scadenza, e la prossima scadenza è la presidenziale del 2012. Dicendo questo, non dico che c'è un tramonto per il Presidente Sarkozy, perché le elezioni regionali sono una cosa, le elezioni presidenziali un'altra. E tra poco, in apertura della seconda parte, verremo alla politica italiana incrociata coi temi della giustizia e della televisione. Andiamo però intanto al Parlamento italiano. Sono stati diffusi oggi i dati dei redditi dei parlamentari e dei ministri e dei membri del governo. Ci colleghiamo in diretta con Vincenzo Miglietta, che ci dà qualche aggiornamento e qualche cifra. Vincenzo. Sì, buongiorno. Se per la corsa alle prossime elezioni l'incertezza in molte regioni resta massima, non c'è invece proprio gara tra i parlamentari a livello di reddito personale. Berlusconi infatti vince con largo distacco su tutti gli altri deputati e senatori. Considerando le dichiarazioni dei redditi del 2009 relativamente alle entrate percepite nel 2008, il Presidente del Consiglio supera quota 23 milioni di euro, con un incremento di circa 8 milioni rispetto all'anno precedente. In particolare a Berlusconi risultano intestati 5 appartamenti a Milano più 2 box ed un terreno Antigua. Tra i leader politici al secondo posto, ma con cifre ben diverse, troviamo Di Pietro con 193.000 euro, a seguire Bossi 156.000, Bersani 150.000, distaccato Casini con 120.000 euro. A livello di presidenti di Camera e Senato, Schifani batte Fini 190.000 euro contro 142.000 dell'inquilino di Montecitorio. Tra i ministri il più ricco risulta quello della difesa, La Russa, che denuncia il fisco oltre 500.000 euro. Seguono la Brambilla e Scaiola, curioso il reddito di Tremonti, che denuncia appena 39.000 euro contro gli oltre 4 milioni dell'anno precedente. Da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. E a proposito di redditi e di fisco, è in arrivo un redditometro tutto nuovo. Ecco come cambia lo strumento per scovare chi nasconde appunto il proprio reddito. Il redditometro avrà presto un nuovo volto. Lo strumento utilizzato dal fisco per scovare chi nasconde i propri redditi si prepara a un cambio di prospettiva. Dalla misurazione basata sui beni posseduti e degli investimenti effettuati, punterà i riflettori sulla reale capacità di spesa del contribuente in rapporto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Il percorso che porterà al nuovo modello è già scandito, come anticipa il direttore dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Il primo appuntamento sarà già dopo Pasqua, con un tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate, associazioni di categoria e professioni, per arrivare a un progetto condiviso, e c'è già un orizzonte in vista: partire con la sperimentazione entro la fine dell'anno. L'intenzione è di mandare definitivamente in archivio beni e coefficienti ormai datati e non più in grado di cogliere le diversità dei contribuenti, come accade adesso per gli immobili, pesati al redditometro allo stesso modo, sia che si trovino nel centro di una grande città, sia in un piccolo paese. Giovanni Parente, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di cinema e televisione. Musica l'avete riconosciuta naturalmente, è quella della celebre serie televisiva degli anni 60 Mission Impossible. È morto ad 83 anni l'attore americano Peter Graves, che in Mission Impossible interpretava Jim Phelps. Graves ha girato quasi 130 pellicole e serie televisive in 60 anni di carriera, ma è stato il piccolo schermo a renderlo celebre proprio con la serie Mission Impossible, andata in onda dal 67 al 73, nella quale rivestiva i panni del protagonista, poi recitato anche nella nuova versione della serie alla fine degli anni 80. The research for this mission is being done by our very own Casey. Luis Barazan will transfer them right back into the National Treasury. Un ruolo che valse a Graves un Golden Globe nel 71 come miglior attore in una serie drammatica e una nomination agli Emmy Awards. E ora la musica. Un mese fa iniziava il Festival di Sanremo. La vigilia era inaspettato il successo di pubblico, ma sul fronte delle vendite come stanno andando? Sanremo, le vendite vanno bene e c'è un boom del downloading legale. Sono un re. È una buona notizia quella che arriva dai dati della FIMI, la Federazione dell'Industria Musicale. I brani scaricati vedono un aumento del 164% rispetto al 2009, mentre nella top 10 le canzoni scaricate a pagamento sono triplicate, da 20.000 a 60.000. Benissimo soprattutto i giovani dei talent. Nella chart redatta dalla FIMI, Rematto di Mengoni al primo posto, ma vanno benissimo anche Valerio Scanu e Noemi. Il presidente della FIMI, Enzo Mazza. C'è stato uno spostamento di giovani verso l'evento, giovani che hanno seguito prevalentemente questi artisti che arrivano dai talent. Questo tipo di artisti sono sicuramente legati a un uso spinto delle nuove tecnologie, quindi social network. Sicuramente questa attenzione verso l'artista li ha fatti poi spostare in occasione del festival verso l'evento dove questi artisti andavano a collocarsi. A far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti. E per quanto riguarda le vendite in generale, la formula di Sanremo quest'anno ha funzionato? Noi da tempo avevamo chiesto a Sanremo di cambiare modello, di spostarsi da quello di evento di artisti tradizionali verso artisti più vicini al mercato, che non sono poi neanche solo quelli del talent, perché se pensiamo anche al successo di Malika o di Nina Zia, quindi sicuramente questa formula è stata vincente. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:16 minuti 53 secondi nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato degli arresti di questa mattina nel Trapanese dei fiancheggiatori del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Tra loro è finito in manette anche il fratello, appunto, del boss. Abbiamo poi parlato delle elezioni in Francia che hanno visto una sostanziale vittoria dei socialisti, seppure con un fortissimo astensionismo. Abbiamo parlato i redditi dei parlamentari, con Berlusconi che rimane naturalmente primo in classifica tra i leader. Il secondo in classifica è invece Antonio Di Pietro. Abbiamo parlato di Sanremo, dove sono andate bene le vendite. Un mese dopo c'è stato un boom del digitale con un 160% in più. Adesso parliamo dell'inchiesta che riguarda anche il presidente del Consiglio e che arriva da Trani. Inchiesta nella quale, come sapete, appunto, è emerso il nome di Silvio Berlusconi e del direttore del TG1 Augusto Minzolini. Il ministro Alfano ha inviato gli ispettori in procura, mentre lo stesso Alfano in queste ore in Puglia. Iniziamo da Trani con Vincenzo Ruttigliano. Vincenzo, quali sono le ultime novità? Buongiorno, nessuna novità sostanzialmente, nel senso che non vi è ancora traccia degli ispettori ministeriali, segno che dovrebbero dunque arrivare nel primo pomeriggio come minimo. Sarà soltanto poi con il loro arrivo che il procuratore capo della Repubblica di Trani, Capristo, potrà conoscere esattamente i documenti e le motivazioni poste a base dell'ispezione ordinata per l'appunto dal ministro Alfano. Al Tribunale di Trani è però arrivato, ed è tuttora nello stesso palazzo, l'avvocato Filiberto Palumbo, co-difensore di Berlusconi insieme all'onorevole Ghedini, che ha depositato l'istanza per sapere se il premier è ufficialmente indagato o no. Intervistato dai giornalisti, Palumbo ha confermato il deposito della richiesta e ha aggiunto di aver sollecitato un incontro con il procuratore capo, che però, gli è stato riferito, era ed è in riunione, quindi non l'ha potuto ricevere. Palumbo ha poi spiegato di aver depositato l'istanza come concordato con Ghedini. Ora ha concluso, aspettiamo la risposta. Intanto è stato pure smobilitato il presidio allestito dall'Italia dei Valori dinanzi al Tribunale. Nel corso di questo presidio vi sono stati due collegamenti telefonici con il senatore Felice Belisario, presidente dell'Italia dei Valori, e Sancho Pardi, alto parlamentare del partito di Di Pietro. E per ora da Trani, Vincenzo Ruttigliano, è tutto. Grazie Vincenzo. Dunque ora ci spostiamo poco lontano, a Bari, dove il ministro Alfano dovrebbe aver parlato. Ci colleghiamo con Giovanni Longo, che ne ha seguito i movimenti in questa giornata. Giovanni. Sì, buongiorno. Gli aspiranti talpe devono sapere che i magistrati le combatteranno. Lo ha detto poco fa il ministro della giustizia Angelino Alfano in visita a Bari in occasione della consegna alla procura di 5 auto confiscate alla criminalità organizzata. Il ministro si riferiva naturalmente alla decisione di aver inviato nella procura di Trani, 50 km a nord di Bari, gli ispettori che, ha assicurato Alfano, non intralceranno l'inchiesta in corso. Il fascicolo è quello RAI e AGCOM, in cui il premier Silvio Berlusconi, il commissario Giancarlo Innocenzi sarebbe sarebbero indagati per concussione. Sull'utilizzo delle intercettazioni, le conversazioni di alcuni colleghi ministri di Alfano, non rilevanti da un punto di vista penale, saranno distrutte, ha invocato un maggiore rispetto della riservatezza, del diritto inviolabile, e che può essere sacrificato solo entro i limiti previsti dall'articolo 15 della Costituzione. Già con la legge vigente, ha detto Alfano, occorre bilanciare le esigenze investigative con la reputazione delle persone. Le talpe, ha concluso, vanno perseguite, e con riferimento alla richiesta depositata dai legali di Berlusconi nella procura di Trani ha semplicemente detto si tratta di una richiesta da normale cittadino. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie dunque anche a Giovanni Longo. TV e politica, i temi continuano ad incrociarsi dunque dopo la decisione del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso di Sky e Telecom Italia Media. Le due aziende contestavano il regolamento che impediva lo svolgimento in periodo elettorale di talk show di approfondimento politico. La decisione riguarda però solo le TV private, ma l'autorità per le telecomunicazioni ha invitato la RAI a rivedere a sua volta le norme che bloccano la messa in onda di Porta a Porta, Anno Zero e Ballarò. Per gli aggiornamenti su questa vicenda ci colleghiamo in diretta con Roma e con Andrea Viali. Andrea. Sì Simone, oggi si saprà proprio se torneranno in onda prima delle regionali Ballarò, Anno Zero e Porta a Porta, perché della questione si sta occupando proprio in questi minuti il Consiglio di Amministrazione straordinario della RAI che è in corso a Viale Mazzini. Sappiamo che sul caso il CDA è diviso perché secondo alcuni dei consiglieri in quota centrodestra prima di ripristinare questi talk show è necessario che la commissione di vigilanza RAI metta mano sul regolamento, sulla par condicio che ha dato il via a tutta questa vicenda. Quelli di centrosinistra, ma in parte anche il presidente Garimberti, spingono invece perché i talk show vengano ripristinati subito, e così vorrebbero anche i militanti dell'Italia dei Valori di Sinistra, Ecologia e Libertà e del Popolo Viola che stanno manifestando adesso in Viale Mazzini. Il portavoce del PDL Capezzone invita intanto a non esercitare pressioni indebite sul CDA della RAI, ma ribadisce anche il no della maggioranza ai talk show politici senza regole. Le regole ci sono e la RAI può ripristinare subito le trasmissioni sospese, sostiene però il radicale Beltrandi che è il relatore del regolamento sulla par condicio varato appunto dalla commissione di vigilanza. Una vicenda dunque molto complessa, vedremo ora cosa deciderà il CDA RAI. Simone. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Noi cambiamo argomento e parliamo di immigrazione. Saranno possibili nuovi ingressi per gli immigrati in Italia. Arriva il decreto flussi che porta a 150.000 il numero degli ingressi per i lavoratori extracomunitari nel 2010. Il provvedimento ricalca esattamente il riparto del 2008. 105.000 posti andranno al lavoro domestico, cioè alle colfe e badanti straniere sempre richieste dalle famiglie italiane, e 45.000 ingressi ai lavoratori provenienti dai paesi riservatari. Non è finita, altri 80.000 ingressi stanno per essere assegnati ai lavoratori stranieri stagionali, tanto attesi nelle regioni dove sono più forti le richieste nei settori del turismo e dell'agricoltura. Per ora non si conoscono altri dettagli sui provvedimenti in arrivo dal Viminale, ma l'iter di stesura è certamente in dirittura d'arrivo. Quello che si può immaginare fin d'ora è che le prossime domande raccolte con la procedura telematica del decreto flussi andranno ad aggiungersi alla mole di lavoro delle prefetture, già super impegnate nella sanatoria per colf e badanti avviata a settembre. Francesca Padula, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso continuiamo a parlare di immigrazione, ma per un fatto di cronaca. Andiamo alla Magliana, un quartiere di Roma, dove c'è stato un raid contro un internet point gestito da bengalesi. Ci colleghiamo in diretta con Savino Gallo, che si trova nella zona dove è avvenuto tutto. Savino. Sì, buongiorno Simone. Vetri rotti, computer distrutti, casse svuotate e soprattutto 4 feriti, nessuno dei quali per fortuna riversa in gravi condizioni. È questo il bilancio del raid effettuato ieri sera al Brothers Bar di via Murlo qui in zona Magliana. Intorno alle 19 circa 15-20 persone hanno fatto irruzione nel locale armati di bastoni. Hanno pestato Mia Mahbub, bengalese e fratello del proprietario, e altre 3 persone, tutte straniere in quel momento all'interno del bar. Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori entrati a volto scoperto sarebbero tutti abitanti della zona e molti di questi sarebbero minorenni tra i 15 e i 18 anni di età. Al momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, tra queste l'attentato di matrice razzista, ma anche la rapina, visto che sono stati portati via i 300 euro della cassa. Ma c'è anche chi, come i cittadini della zona, parla di spedizione punitiva contro i bengalesi e i traffici che gestivano. Intanto per le 15 e previsto un presidio degli immigrati residenti nel quartiere nei pressi del bar oggetto dell'aggressione. E per il momento è tutto. Grazie dunque a Savino Gallo. Siamo in chiusura con lo sport per tutte le vicende calcistiche, a partire dal quasi aggancio del Milan all'Inter. Vi rimandiamo alle 14 con A Tempo di Sport. Noi ci occupiamo adesso di Formula 1 con il bel risultato di ieri delle Ferrari. Buona, anzi no, ottima la prima, perché la doppietta Ferrari in Bahrain, l'ottantesima della storia, regala buon umore e speranze. A patto però di non illudersi di avere davanti una stagione tipo il 2004, quella del monocolore rosso, quando la casa di Maranello lasciò alle avversarie 3 gare su 18. Non sarà un mondiale in discesa solo perché nel deserto di Shakir le Ferrari si sono dimostrate veloci e robuste, Alonso ha confermato di essere un vincente e Massa gli ha fatto da degno secondo, mettendo le ambizioni della squadra davanti alle proprie. Quel che è vero è che la Ferrari ha saputo interpretare meglio degli avversari le nuove regole ed ha trovato quel tocco magico, quel sapiente guizzo nella strategia che sembrava perduto. Cambiare entrambi i motori prima del via si è rivelata la mossa vincente, ma rischiosa visto che sono 2 propulsori in meno degli 8 da utilizzare in tutta la stagione. A Maranello tutti, da domenica in giù, da oggi sapranno rimettersi al lavoro per sviluppare al meglio la F10 in vista di Melbourne, perché le altre non stanno a guardare. La Red Bull di Vettel avrebbe meritato più del 4º posto dopo aver fatto da lepre per 2/3 di gara, fermata solo dal guasto ad una candela. Hamilton ieri 3º ha confermato di essere stella di prima grandezza alla guida di una macchina dai margini di miglioramento enormi. E poi c'è Michael Schumacher, autore di una prestazione senza acuti né sbavature, che non si accontenterà di altri anonimi 6º posti. Insomma, ottima la prima, ma per la Ferrari il bello ed il difficile arrivano adesso. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchese e Maria Piera Cece, con in regia Pietro Lacorte. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.